No, ma anche anche su beat ci sta. Che cosa? Registrare, dicevo. No, sul beat non ci capisci un cazzo. So there we go. Ma chi è che fa sto verso? See the smile. Dove faccio il test? Dove faccio il test? Man, gira un altro pesto. I smoke basi. Canale H, c'è un effetto di sublime. 89 BPM, questo è un afroamericano. Perfetto il cimello, andate tutti a fare nell'anno. Voglio questo è rap. Wikipedia. Il pesto dello zio Mello è pronto. Pronto, yeah. Per piacere fette MC rispondo sempre. Sono quello di Overkill, il meno simile a Stargell. Sono quello di F120 e gare di freestyle. Sono questo merda, in questa merda io non cambio mai. Sono un samurai, con le ciabatte da Shanghai. Fumo Parvati con lo zio e tuo zio, Fraccia Light. Stai con la tua gente che qua vi ribattezziamo. Acqua bonga, ganja santa, i nostri culi sul divano. Sfarioniamo, al momento entra Mello. Malizia spento, 8-9 BPM and Overkill è l'argomento. Vieni a fare il figo qui, non mi sposto dal PC. Tanto me le fette MC cagano un altro CD. Sì, se vuoi produco rappo ma non parlo. Ho difficoltà nel farlo, il computer resta il mio migliore amico. Io non gioco a fare il gangsta, sono un trentenne fallito. Vuoi trovarmi ad ogni ora con calzini ed infradito. Altro che Timberland, coglioni, so suono fatto in ciabatte. Zero clap, non stiamo dall'altra parte. Mixtape volume 1, flipper, zero carte false. Adesso mettiti in ciabatte e balla di sto valzer. Altro che Timberland, coglioni, so suono fatto in ciabatte. Zero clap, non stiamo dall'altra parte. Mixtape volume 1, flipper, zero carte false. Adesso mettiti in ciabatte e balla di sto valzer. Hey, Panzer, la gente mi etichetta per la pancia. Per il flow, per il rap e l'abbondanza di fattanza. Sono nell'altra stanza, il beat che danza mi calpesta. È un'altra circostanza, ma la tua gente non resta. Testa mi detesta, mi lasciami testamento. Teste di cazzo a tempo, sono il cattivo esempio. Noi con gli sticker di sti team, zero rap li bling. Lo si spinge per l'Italia con le soste in auto grill. E sì, è invasione della strada. Stampo il logo su ogni casa. Salgo sopra, faccio il vago, cago sopra le tue Prada. Tu che giri da una vita per salire sopra un palco. Io che giro su una micra al nord Italia col mio branco. D'altro canto so che chi si sbatte prende, ma chi non si sbatte niente. Si fa seghe ma per sempre. Forse è solo un'illusione, in realtà sono sempre qui. Perso dentro uno svarione col mio amico Fat MC. Altro che Timberland, coglioni, so suono fatto in ciabatte. Zero clap, non stiamo dall'altra parte. Mixtape volume 1, zero carte false. Adesso mettiti in ciabatte e balla di sto valzer. Altro che Timberland, coglioni, so suono fatto in ciabatte. Zero clap, non stiamo dall'altra parte. Mixtape volume 1, zero carte false. Adesso mettiti in ciabatte e balla di sto valzer. Quindi girami una bomba. Sai come funziona? Se me gira le bombe ancora il suono ci sarà.